La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alle donne intelligenti, coraggiose, appassionate, che presero parte ai moti risorgimentali. Ospite ai nostri microfoni Claudia Galimberti, consulente delle pari opportunità al Quirinale e una delle autrici di Donne del Risorgimento, libro collettivo edito da Il Mulino, firmato dal gruppo di scrittrici e giornaliste di Controparola. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Sui libri di scuola abbiamo studiato un risorgimento quasi esclusivamente al maschile. Le donne sono sempre rimaste nell'ombra, eppure il loro contributo è stato determinante. Da Giorgina Saffi a Giara Maffei, da Sara Nathan ad Anita Garibaldi, dalla nobile Cristina di Belgioioso alla capraia palermitana Teresa Testa di Lana. Donne intelligenti, coraggiose e appassionate. Il libro Donne del Risorgimento, pubblicato in questi giorni dal Mulino, in occasione delle celebrazioni del 150enario dell'Unità Nazionale, è frutto di un lavoro collettivo. Scrittrici e giornaliste che fanno parte di Controparola, un gruppo nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini. Elena Doni, Claudia Galimberti, Maria Grosso, Lia Levi, Maria Serena Palieri, Loredana Rotondo, Francesca Sancin, Mirella Serri, Federica Tagliaventi, Simona Tagliaventi, Chiara Valentini e la stessa Dacia Maraini. Attraverso una galleria di personaggi femminili che in modi diversi hanno contribuito a scrivere pagine del periodo che portò all'Unità d'Italia, le autrici del libro ci offrono una pagina inedita del Risorgimento, visto per una volta appunto dalla parte delle donne. Nell'Ottocento, si legge nella premessa, durante la primavera dell'Italia, le donne che in vario modo si erano impegnate combattendo sulle barricate, come a Milano, affrontando la prigione o anche solo preparando coccarde tricolori, avevano ricevuto immediati riconoscimenti dalle più importanti figure dell'epoca. Ma una volta spenti i riflettori sull'epopea risorgimentale, quando si manifestò il desiderio del ritorno alla normalità, le donne scomparvero rapidamente dalla memoria storica. Erano tante le donne del Risorgimento, dal nord al sud, senza distinzione di classe sociale. Popolane e aristocratiche, borghesi e contadine, donne di grande valore, come Cristina Trivulzio di Belgioioso, che partecipò a tutto tondo alla causa italiana, o come Colomba Antonietti, figlia di un fornaio, che morì al Gianicolo, o Enrichetta Caracciolo, fondatrice della prima loggia massonica femminile, Antonietta De Pace, cospiratrice pugliese, arrestata quando fu vista ingoiare due proclami di Mazzini e rinchiusa in una cella talmente piccola che non le consentiva nemmeno di distendersi. E ancora Enrichetta di Lorenzo, la coraggiosa compagna di Pisacane, per finire con Anita Garibaldi, non solo moglie ma anche intrepida guerrigliera, e la garibaldina Antonia Masaniello. Si scoprì che era una donna solo quando in battaglia le volò via il berretto che nascondeva i capelli. E che dire di Rosalie Montmasson, unica donna che partì da quarto con i mille. Nacque nel 1821 il ramo femminile della carboneria. Le affiliate si chiamavano giardiniere, perché ufficialmente si riunivano nei loro giardini per discorrere di erbe, piante e fiori. Ogni gruppo era chiamato aiola ed era formato da 9 donne. Il loro motto era onore e virtù. Cominciamo proprio da questo nucleo iniziale di rivoluzionarie. Lo facciamo in compagnia di Claudia Galimberti, una delle autrici del libro, che è dirigente della Presidenza della Repubblica e docente di Donne e Mercato del Lavoro alla Sapienza di Roma. Buonasera, dottoressa, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Lei scrive nel suo saggio che una delle caratteristiche delle donne del Risorgimento fu che non rinnegarono affatto il loro ruolo di madri, mogli e sorelle. Pretesero però una piena partecipazione alla vita politica e l'uguaglianza sul piano sociale. Si può dire che in qualche modo anticiparono il movimento per l'emancipazione femminile? Ma sì, possiamo anche considerare queste donne già delle proto-femministe, anche se c'era una distinzione tra il femminismo e questo proto-femminismo. Cioè, quello che in realtà interessava queste donne soprattutto era la causa patriottica, cioè liberare l'Italia dallo straniero. E questo è il tratto comune che unisce popolane, aristocratiche, lavandaie e nobili ovunque, in tutta Italia. Perché poi queste donne stabilirono una rete tra di loro, una rete incredibile. Le donne toscane aiutarono le lombarde le salentine le siciliane le fiorentine. Cioè riuscivano perché avevano questo entusiasmo, questo impeto comune. Diciamo che il concetto di cittadinanza era ancora un po' difficile da coniugare al femminile. Loro ci credevano, pretendevano di essere considerate non come madri, sorelle, figli, mogli, ma in effetti come donne cittadine che partecipavano, ma erano pronte a mettere in secondo piano questo diritto pur di arrivare allo scopo dell'unità d'Italia. Il suo saggio si intitola Bianca, Cecilia, Teresa e le altre. Ha scelto di raccontare la storia di un gruppo di donne in particolare proprio facendo riferimento a questo accenno che noi abbiamo fatto poc'anzi nel fatto che nel 1821 nacque il ramo femminile della carboneria. Ecco, perché questo aspetto ha suscitato il suo interesse? Ma perché è cominciato allora questo a gettare il seme, diciamo, di un animo rivoluzionario delle donne? Perché proprio allora, in coincidenza con la carboneria, con questo motto onore e virtù, che le donne escono dai salotti, ma escono anche dalle case più modeste, cioè partecipano alla vita pubblica. Prima la vita pubblica all'esterno era considerata appannaggio dell'uomo. Ed è per la prima volta, tramite questa rivoluzione risorgimentale, quindi tramite le prime società segrete, che da un lato gli uomini hanno bisogno delle donne, ma dall'altro delle donne come corriere, come emissarie, come persone che ospitano nelle loro case i rifugiati, i clandestini, le riunioni segrete, ma le donne hanno un estremo bisogno di sentirsi partecipi e di iniziare questa rivoluzione che è anche una rivoluzione all'interno di se stesse, di mettersi in gioco. Pensiamo a quante donne Enrichetta Di Lorenzo che lascia marito e figli per seguire il compagno, pensiamo a Rosalie di Montmasson che accetta di convivere con Francesco Crispi senza sposarsi pur sapendo che lui ha già una storia e un figlio da un'altra donna. Cioè tutto questo è indice di un profondo cambiamento che arriva in quel momento e che c'è nell'aria e che le donne colgono con un intuito e un entusiasmo incredibili. L'altro aspetto interessante che emerge dal libro è che questo risorgimento visto al femminile di fatto coinvolge donne di varie classi sociali e anche di varia estrazione, sia politica che culturale, lavandaie, giornaliste, aristocratiche e massaie, italiane e straniere. Esatto. Ecco, ma per quale motivo la memoria poi di questo risorgimento è stata pressoché cancellata? Ma perché in effetti sia durante lo svolgimento del risorgimento, ma durante lo svolgimento diciamo che Mazzini e Garibaldi apprezzavano le donne che le avevano aiutate. Garibaldi diede anche sul campo degli onori e delle nomine, diciamo, a queste donne. Mazzini nei suoi scritti diceva che bisognava riconoscere i diritti delle donne, però nell'insieme si è sempre cristallizzata in figure maschili la storia e anche il Parlamento. Cioè, una volta che queste donne avevano contribuito all'Italia e all'unità d'Italia, ma contribuito morendo, essendo prigionieri, dando tutti i loro averi, i loro saperi, le loro abilità, mettendosi in gioco in continuazione, questo nuovo Parlamento, questa patria, non offre a queste donne dei modelli di vita che siano diversi da quelli tradizionali. Cioè, dicono, senti, occupati di scuola e di ospedali. Fai insomma un lavoro di accudimento. La riscoperta anche di questa pagina del Risorgimento, ora che in queste settimane, lo abbiamo visto, si celebrano con molte iniziative, si celebra l'anniversario del nostro 150enario. Può servire, secondo lei, a dare anche uno spaccato diverso di quello che fu il Risorgimento? In effetti noi l'abbiamo sempre un po' visto come opera quasi esclusivamente al femminile, quindi è una lettura che probabilmente può anche aprire una discussione. Cioè, noi in genere l'abbiamo sempre visto al maschile, mentre apriamo pure uno spaccato di vita diversa. Ci sarà a settembre proprio a Milano, al Museo del Risorgimento, una mostra dedicata alle donne, alla condizione delle donne allora e alle donne del Risorgimento. Però è importante che c'è una sorta di filo rosso che unisce queste, le delusioni delle donne che si vedono dimenticate dalla storia, anche all'oggi, cioè oggi nella parità, come disse anche il nostro presidente l'8 marzo, nella parità siamo ancora lontani dall'avere diritti uguali tra uomini e donne, cioè diritti sì, ma possibilità di andare avanti, di essere presenti, di arrivare nei posti decisionali, di aver riconosciuto un merito, diciamo. Questo ancora c'è naturalmente da lottare con tutto quello che le donne hanno ottenuto grazie a grandi figure, a partire dalle figure del Risorgimento. È lì che c'è in nuce il primo seme di questa emancipazione femminile. Molte grazie, buon lavoro e complimenti per il libro. Grazie a voi, arrivederci.